molto amplificata, o come può essere quella di Tino Muscolo, molto amplificata, che si sente proprio l'amplificazione. Questa di coso, perlomeno, per le mie orecchie, sembra che ce l'abbia davanti parlando di persona, capito? Serve tutto il bordello eccetera, ma lo posso levare, non è che non lo posso levare, solo che lui ci mette a gridare e quindi il microfono tende a trappare, quanto fa a prendere un po' la mano, poi lo solleviamo un pelino ancora come Mickey Gay, però c'è un'altra presenza allucinante, molto molto bella. Se mi consentite volevo chiamare Franco 31, vediamo un po' se c'è Franco. Franco è uscito. Dove? Allora, ma che parte sarà in giro? Siamo sentiti, non mi ha cercato. E perché ti devo cercare? Ah, come già pensate che mi ero innamorato di te? Non lo so, sai, siccome hai due figli ce li hai sempre in tasca per prendere il caffè, no? Vabbè, me l'ho sbagliato, lo sai, in questi giorni, il sabato poi soprattutto, quella domenica me ne vado a fare sempre in campagna perché non fosse lunga. Vabbè, stamattina l'avevo fatto, abbiamo pensato a scendere. Ok, comunque quella roba lì l'ho data. Da tutto lui, ricordati piuttosto, se c'hai due minuti domani di portare quel palmarino che tu sai, capito? In modo che ce l'ho. Sì, sì, va bene, non c'è nessun problema, ma è che me lo sanno, no, veramente me lo sanno tutto dimenticato. L'ultima verità, perché se non avessi già questa sera me l'avrei lasciato in mente. Non è così urgente, no? Ricordati andavo a Franco, e intanto ti devi vedere con Franco per forza, quindi non c'è problema. Quando vai da lui ricordati che devi portare quel palmarino, così lo metto in azione. Tanto noi stiamo lavorando su altra cosa. Ok, Antonio Riserva, molto bene. Luca? Ciao Antonio, stai trovando questo programma, non è tre sabbiche, soccer, ogni tanto mi fanno apparire, gava, comunque ripeto qua, va bene, la voglio essere Salvatore, ci mancherebbe, però boh, mi è sembrato che con l'altra mi piace di più, sarà. Mamma, non mi è piaciuto, vai tranquillo che te lo dice una persona che di radio, grazie a Dio, me ne intendo tantissimo, guarda, a me le modulazioni belle piacciono, che te l'ho detto, quando dici bene, tu stai facendo bene, c'è una radio buona, bella, però è una radio particolare la tua, qua stiamo parlando di professionalità microfonica, quindi c'è un effetto presenza naturale, c'ha dei medio alti, cioè c'è una correzione, una tonalità veramente professionale. Si sente che sta usando un microfono professionale, non è un microfono di quelli che noi usiamo con i baracchini normali, capito? La differenza che bisogna dire è quella, e la differenza è quella. Poi la tonalità si può ancora sollevare, non è a minimo, è proprio a minimo minimo perché abbiamo fatto le prove, lui grida e quindi, capito? E quindi fa casino, si fa troppo alta la modulazione. E quindi l'abbiamo regolato così, però pian piano cerchiamo di regolarlo meglio, capito? Sì, non c'è problema, sì, va bene. Gappa, va bene. Ma c'è il 14? No, è di meno il mio, il 44. Con il correttore incorporato, tutto nuovo, la vetrina. Preso da un carissimo amico e se ne è disfatto, non qua di Sassari, molto molto bello, nuovo, un prezzo veramente interessante, infatti stavo per andare, la verità, lo sa, l'ho letto, ma lo volevo tenere io, averne due, capito? Però gliel'avevo promesso che glielo cercavo,

Vediamo un po'. Va bene così? Ottimo, così tu, io frate, micidiale, ho troppo poco, ho troppo. Così sei fuori dal bicchiere, ne sta scendendo l'acqua. Per carità. Ok, allora si ripartire. Ora vediamo. problemi col coso, con la linea di coso di internet. Tutto un supercar e l'inuit da base. essere tutti fuori, perché tanto io sono abituato a vedere l'aria di questa parte, è inutile stare a Meruachi, non va di Milazia. Ecco quello che ha venuto con la VC 7007 VU, dualmente ferma e transceiver, guarda, 270 euro, mancano 23 ore. Poi guarda qua, l'hai visto, guarda questo macchino, Tokai PV5024, Airbus CB24 più Galaxy Saturn, non so se funziona perché manca lo smitter e il rosma, però 80 euro, c'è un'offerta soltanto. E non beh, come dice però la di ICB, spostate qualche volta sulla pagina dove maturi, qualche macchino te lo trovi, ma guarda cose serie però, e qui io guardo cose serie, macchini, Tokai, vedo poi, i 548 e questo ce l'ho io, vedi? HS 25 watt, questo ce l'ho, 14 offerte, 90 euro, questo ce l'ho sulla PRS, io questa radio qua, questo UHF, no, ma sto cercando se c'è roba interessante, da due lire, tipo quella che hai trovato tu, a 150, quello senza manopola, con la manopola. A proposito Claudio, dimmi una cosa, il 140, c'ha la stessa manopola del 440? Sai quanto c'è in offerta qua su internet, completa tutte le manopole, completa il manopolone con tutti gli interruttori e cose, 11 euro. Ah, i telecamere le stanno vendendo. E c'è il frontalino e tutti i tasti, ci sono tutti i tasti, 11,50 euro mi sembra. Quindi quelli sono a comprare per uno che c'è il laboratorio, perché può capitare che ci sgrani, perché ci possono anche sgranare, è un ingranaggio, capito, collegato con un asse praticamente c'ha il taglio per mantenere, c'è una vite senza fine, tu la viti e lui rimane fermo così, quindi si può sgranare col tempo, non è mai successo, comunque può succedere, perciò le fitte di cambio vanno bene. Yaesu, a te per transceiver, FT101, le radio questa. 2 giorni, 16 ore, mamma mia che bella, vado, mi butto. Sei attento di segarsi insomma. Mi butto. Guarda, vabbè, qua c'è il Suami, qua c'è addirittura il 250, tu figurati che quello lì era il 909, Suami modello 250C, compra subito a 300 euro, la regalata quella ragazza. Non so se l'ha venduta lei Claudio. Ci metto una venduta. Claudio, buonasera. Per me cosa? 7.7 ha venduto, gli altri non so se l'ha venduto tu. Marco Scorpio. Vabbè. Dimmi Marco, ciao, buonasera. Dimmi un po', come mi sentite con questa modulazione qua? Bellissima. Come ti ascoltavo sempre dalla macchina. Bello, forte, chiaro e pimpante. Diciamo. Questa cosa non è che certo è fatta la via mucchiare tutto e la faccia di dice che non c'è andato, sono passato, non c'era. Se pronunciare tutto mi porto tutto via, diglielo tranquillamente. Cioè, è una cosa che mi serve, lui lo sa. Quindi ha telefonare con molta, molta fedelità. Perché altrimenti è risalire il computer, risalire il computer. Altrimenti non possiamo fare niente, Marco Rico. Casa fa, io l'altro giorno già l'ho visto. Sono arrivato, ho portato il tutto, ma dovevo portarlo già un'altra settimana. Comunque domani, anzi guarda, mi sa che faccio una cosa, lo chiamo prima di andarci, così se non c'è gli dico di andare a prenderlo. Qua ci sono scappata, lo porto sul computer e così si fa la voce a parlare. Tanto è un lavoro di 5 minuti. Guarda, se fate tutto, va bene, basta. Prendete, io scendo un attimo, sto facendo un piccolo trasbordo di operazioni e ritorno fra pochi istanti. Robert, perdonami un secondo, come antenne come siamo messi? Come antenne siamo messi che ho rimesso quella uguale a quella che ho preso a te. Ho rimesso quella qua, mentre per quanto concerne quel lavoro là siamo ormai nella fase finale. Tutti i tubi, tutte le cose, adesso si tratta solamente di cablarla e poi cablarla la tua e poi salire su a provarla. Vabbè, ci aggiorniamo domani, ok, quindi vabbè. No, Marco, ben sentito. No, dove la stai guardando questa roba, questi modelli della ICOM, eccetera, eccetera? In che pagina sei qua? C'è scritto, tu vai sempre sulla pagina CB, sulla pagina direttamente tutta la parte amatoriale. Sì, no, sono quella pagina, ma dico che pagina sei, pagina 5, sì, cioè 5 di 18 io sono arrivato. Io sono 6 di 18, quindi sono già superato. E quindi vai avanti lì, c'è un sacco di roba interessante, se magari critichiamo qualche cosa come abbiamo già visto, cioè come hai visto l'altro giorno, caspita, è una camionata quello. Sì, ma quell'apparecchio che mi hai detto tu, dove l'hai visto? Quello che ti ho detto poco fa io della Sangino, come ti chiama, ATS-909, dove l'hai visto? È l'R20 della ICOM. No, ho visto il 250, nella pagina 4 mi pare che sia. Capiamo entrare? Mario, ci sei? Ma avete fatto che vi ascolta? Va bene, dai! Capita che ci sia qualche riparazione da fare, c'è qualche prezzo interessante, capito? No, io sto cercando altro lineare, ce l'ho, ponte ripetitore. Aspetta, abbiamo anche un ponte ripetitore. Appena funzionata. Vabbè. Prese. Quella apparecchio va bene a cosa? Va bene. A salvatore sul briciolato. Ah, che allora piace la roba briciolata. Io faccio quel pezzo, che a volte cerchiamo, c'è una manopola, una mattatiera, c'è un 440, i pomellini, queste cose così che si possono perdere o giurare, no? Cazzo vedi, c'è un pezzo interessante quelli. Certo. Addirittura abbiamo venduto un 140, 150 euro, senza manopola ormai del VSO. 11 euro, comunque tutto questo kit. Rapesi di ricambio, c'è anche il monopolo, glielo metti e hai pagato un 140-150 euro, vedi Mario? Proprio la mattina. K, ebbene, le fortune vuol dire che non sono per me qua, vuol dire che, come diceva quello recente, sarei più fortunato, ma siamo esami, non riesco a fare la misura. Sì, a potedini, che prima o poi lo metteghiamo. Se non qua c'è internet, io ho un sacco di amici che loro sanno, quando hanno radio e quando mi chiamano, capite? Mi chiamano perché l'ho fatto questa volta, io ho detto non mi sono verificato. Disponibilità di una certa tariffa, quindi se non propongo da quella tariffa tu sei tranquillo che neanche ti chiamo, o parlo direttamente. Questa è qua. Rigatore lineare IAES UFL 2100, completo il manuale, schema in inglese, potenza 1200 watt, pezzo in SSB, 1000 watt in CV2 per 400 watt in MFN, utilizza la valvola 572B e T160, completo di vento, la interna consumo 90, 200B, 20 volt. Certo, c'è. 400 euro. Tu quando vieni qua ti faccio vedere, di quello di quello, allora, non è qui. È già qui. Ci sta lavorando su un altro, è quello caro mio, quello io credo non si fa scappare niente, il microfono vedi, tu per più due da tavolo, vedi, non liscio, 4 giorni, 30,01 euro, 3 offerte, vedi, questo è il momento sui preferiti, se riusciamo a prendere a 50 euro per microfono, vado liscio, adesso è un microfono eccezionale. Poi c'è un altro amplificatore, questo 1300 watt in FM e CV2 per 2000 in SSB. Monta, va a 3 valvole, 1588-77. Quello è... ci vogliono 6 kW per farlo andare, vabbè, non è roba per me, io mi accontento di poco, però va bene anche questo. Questo è roba da 1000 watt, va benissimo, non chiedo molto, capito? 600-700, anche a volte di più, secondo la... il volte che le robe di pilotaggio in AM, quindi in mano laterale, poi si oppressa le mande. Ma mi accontento di questo, Roberto, va benissimo, non spendo più soldi in amplificatore. Magari se c'è qualche altra trattata, sì, poi tra l'altro mi sono comprato un'altra radio da poco, la settimana scorsa, e dovrebbe arrivare domani, al massimo dopodomani. Ed è il 706 MK2G, che ha le VHF, e le HF, capito? E quello lo devo mettere in macchina, a porto al baracchino, perché mi voglio sfruttare la licenza e non me ne fotte nulla, faccio attività se devo farla, e se non devo farla così, ma almeno quando mi fermo presento la patente e la licenza e sono in regola, mentre invece ho il baracchino, ne ho lavorato, ti do un po' la palla e qui e là, capito? Un altro HF piccolino, sempre veicolare, adesso vedo un pochino di fare qualche cambio, di lasciarlo quando va le fiere e prendere un'altra radio. Insomma, ho fatto un po' di pulizia recentemente e quindi va bene così. Sono contentissimo, e questo è un 301B, per gli amatori 129, perfetto 5 giorni, non ce ne frega niente, è tutta roba. Prova passata, che mi piace 9.30, SAT, 9.30, prima è 9.40, 629 euro, 5 giorni, questo è malato di testa e non le funziona. Ma di il cassino Mario del 145 nuovo, iniziato a 3 euro, 5 giorni. Compra subito questo fatto, ma no, se no li avremmo comprato subito la tariffa. Planetori Anfeno ci sono, Anfeno. Efficiente, vediamo la sera, la banda al gozo, al vettino al nome. No, se ti capita, poi ci mettiamo una cosa. Qua ce ne sono 10 connettori Amphenol e 30 euro sono arrivati. Compra subito 35 euro. È un prezzo buono, Roberto, un prezzo buono. Costano 5 euro l'uno per qui. No, però no, perché no, se ti accontenti, cioè, non lo lavorare nuovo, ma non ce l'ho. Non ce l'ho, mi ha trovato uno usato e avevo attaccato un cavetto. Mi sono andato pulito e messo dentro la scatoletta, non mi sono accorto che era, capito, le cercavo quelli nuovi, invece nuovi non mi avrebbe. Cioè, però, quando hai portato l'antenna, passatelo, sono mai c'era, passatelo, capito? E così inizi a fare quello che devi fare. Allora, speriamo di arrivare di Stuccapo, dice che l'hanno già spedito, mi ha detto cosa, Marca, fra di Fusaro, dove era in arrivo, però fino a venerdì non è arrivato, adesso speriamo che arrivi domani così finalmente riuscirò a piazzarlo. Questo c'è anche l'adattatore, da piccolo a grande, capito? Quindi lo puoi mettere sia sul cavo grosso che sul cavo piccolo, Roberto. L'avevo preso così io questi, proprio perché inizialmente avevo 58 e quindi usavo qualche PL di quelli buoni su quello lì. Se vuoi metterlo sul cavo grosso, svitti l'adattatore che c'è. La parola non è messa per il cavo grosso, non per il piccolo. Ah, non c'è problema. Non problema, perfettamente. Ok, Mario, ma Luca l'ho andato a finire, Lu. Sono Mario adesso. Monia, monia. Lì la Sirio c'è, antenna Sirio 827, B27. €650 e c'era un 940 710. Ah, controlla bene, vabbè, che l'ho visto anch'io. sono due pesi, la T50 e il TS50, capito? Quindi la radio più l'accordatore, la T50, e costa un barca di soldi, quindi questo è buono, è buonissimo, 650 euro con la T50, è buono. E il 940 invece 710, che c'è l'accordatore incorporato, non è migliore? Il 940 lo sei comprato subito, non è in offerta. Già deve fare tra qualche ora, c'erano 23 offerte. C'è qualche prezzo di riserva, è possibile, guarda, io l'ho comprato il 940 usato, l'ho comprato una volta, adesso non mi ricordo se due anni fa l'ho pagato, mi pare quanto, un milione mi pare. Prima di uscire, poco prima di uscire la lira, o 1.000 euro, quando è che non me la metto? Cioè 1.000 euro, cioè 1.000 euro o... un milione in lire, non me lo ricordo, sinceramente non me lo ricordo, comunque un sacco di soldi l'ho pagato. Ma Claudio, manca un'ora e due minuti, qua l'offerta è arrivata a 750 euro, TS940 SAS con l'accordatore automatico, 750 euro. Uguale, preciso al mio, ma non lo prende nessuno per 750 euro, c'è qualche prezzo leggero. Il mio HF Transceiver TS940 SAT, con l'accordatore, accordatore più... Nikon. 3700 MHz, il mio c'ha completo di tutti, filtri, scheda, fonema, correttore, tutto, da A alla Z. Appunto Claudio, io sto dicendo, facendo un confronto con un TS50 che sta vendendo 650 euro, lì c'è un apparecchio, non è un giocattolo, il 940. Il 940 non c'è una radio, qui ce l'ha Sabatieri, io l'ho sempre tenuta perché è un ottimo ricettrans. Un ottimo ricettrans. Non ha grossa potenza né M, perché va negativo, ma in banda laterale tira fuori 150 watt alla grande. Vai Mario, sì, Mario. Eia, sono qua, buonasera. E allora, ma gli apparati quelli lì, ci vuole un patrimonio, caro Claudio. Grazie a te che piano piano, col tempo, sei riuscito a accaparrarti tutto. Ma Mario, ho detto bene, piano piano, col tempo, tanti ore di sacrifici hai lavorato per mettermi, non per farmi grande, ma... un sacco di sacrificio qua, a me sono sempre piaciute le radio ed era un mio sogno avere un mio angolo come questo, chi l'ha visto lo sa, non nascondo niente, però è stato sempre una mia grande passione, Natalino forse l'unico che ha visto quando ancora non ero radioamatore, la passione che avevo lì nella stanzetta di mia figlia, chi ce lo ricorda, tipo Riserva, Antonio, Roberto Meccanico, sono quelli che ci conosciamo da tantissimi anni. Arrivare a questi livelli ci ho messo tantissimi anni e tantissimo sacrificio. E oggi posso dire che finalmente mi posso sbizzarrire con la radio, mi posso sbizzarrire un po' su tutto, però vi voglio un sacco di vinare, credete. Soprattutto gli aggiornamenti, aggiornarsi ogni tanto, vedere, fare. È un casino. C'è anche a pezzi 940, stadio microfonico, stadio finale, mi sono tutti i pezzi. Ma tutti e due ragazzi a pezzi. Dalle al Salvatore che le piace sbriciolato a lui. Agostino Vallo. Agostino, sì. Tutti sbriciolati lui di fuori. Cazzo battarello, Quando la gente ce la bai da fare, chiarità, Ma risa a me, mi capo, sto ridendo, ma è troppo vecchio. Agostino, poi si chiama Agostino. Perché Spinello, Agostino, capito? Mario, come te l'hai chiamato quando è entrato? Mario! Ah, vero, era una scena quello lì. Vabbè, è quello che vuoi fare. Comunque, è bello quando trovi così gente divertente, si fa la chiacchierata, si scherza, si fa... chi cambiamo sugio o quando è sempre la stessa parte asciutta rompe un po', capito, diventa monotono. Quello che ci deve saldare la barca è il ricordo della barca, Agostino o Mario. Allora domani lo conosco in verticale, Claudio, io mi grigio. Ho detto Natalì, allora domani a questo qui lo conosco in verticale. signore. E io, quello che parliamo attorno non c'entra qua, non gli piace qua, va. Qualche volta che senti a Luca, perché invece ha preso simpatia a Luca, no? E allora va così, due drogati impara a Luca. Ma è KK, andrà bene. E già, già è bello divertirsi ogni tanto, non, poi non c'entra nulla. È radioamatore, non è radioamatore, io vedo che ci sono tanti radioamatori che ogni tanto entrano, salutano, ci facciamo la chiacchierata, ridiamo, scherziamo e via. Cioè, gli sono rimbiati, cioè non faremmo la lembra, no? Fabio il radioamatore entra, Antonio di Monteone il radioamatore entra, Corso quell'altro entra lo stesso, cioè se uno ha piacere di trovare gli amici, di passare la chiacchierata, entra, non dico che magari ci stia ore, però una decina di minuti, un quarto d'ora, entra e scherza con tutti. Non c'è problema. Poi sì, di chi crede che noi della 27 avremmo la lembra, allora è una sommaggia di manichi. No, se no, non ho capito nulla di quello che hai detto, ho capito le ultime due parole, sento o non sente, ho detto che non gli piace la 27, non è che lui entra, quando sente gli amici entra e li saluta, però non è che gli piace tanto, più tanto. Cappa, perché tu a Antonio di Monteoro lo senti sempre qui presente, ogni tanto entra, trova me, trova te, trova Claudio, con quattro chiacchiere, due risate e si va avanti. Poi giustamente lui ha altri interessi, come un po' tutti noi abbiamo altri interessi, facciamo altre cose, tutto qua. Giusto Claudio? Claudio da Farato. Sì, magari si è spostato. Questo è lo stesso microfono. c'è già. Questo spinge. No, tanto lo faccio. Luca, che radio vuoi, dai io. Dimmi che radio vuoi. Mario. Ma Mario aveva difficoltà a ascoltarmi, perché so che sta bene questo microfono, anche se è normale. Cosa va bene? Va, sì che è bene. Ah, io l'ho visto. Anche tu lo stai guardando la serie 1? Gaffa, che non se la brista, ma la vita è troppo buona. Speriamo che non faccia sorpresa il tempo. Ma se non sbaglio, io l'ho visto di sfuggita e non ho capito quando sia, però ha messo per, o per mercoledì o per giovedì che piove. Ma diciamo il tempo è regolarmente nuvoloso, magari al centro, nelle zone alte, qualche pioggerina se lo fa, ma non ne ho visto di tempo di pioggia, saranno una pioggia così passeggera, non roba importante. Ormai un tempo l'eva già era già fatta. Ma io ho visto la televisione a mezzogiorno prima di iniziare la Formula 1. L'ho visto così di fuggita, ho visto che c'erano precipitazioni sia in Sardegna che in Sicilia. E il resto del continente è tutto a posto. Però qui in Sardegna dice che c'era una perturbazione che ci portava un po' di pioggia. Magari è quella pioggia che fa in primavera che poi è tutto a fango. No, ma tu sei una cosa affidabile di guardare il SAR, le previsioni del SAR, quelle che pubblica la Nuova Sardegna o anche quel giornale del Nord Sardegna, quello nuovo che stanno mettendo in giro. Tu guarda la zona climatica 1, la zona di Sassari e tutto quanto, quello ti dà le indicazioni entro i tre giorni, sono perfette, rarissimamente sbagliano, ti dice precipitazioni, ti dice la mattina, per dire assenti, il pomeriggio, ti dice quanta pioggia c'è, poi ti dice la tendenza del tempo nell'arco di ricordo, di tre giorni, poi ti dice i venti, le direzioni dei venti, le onde quanto sono alte, guarda, è una cosa spettacolare, ce l'hai invidia tutto il mondo quello che abbiamo noi, questo bollettino che fa il SAR. KK, ma a me la settimana non mi interessa perché diciamo io non ho posto perché altrimenti la barca me l'avrei messa lì al porto e la sera quando sarei uscito dalle 6 alle 9 anche alle 10 per dire me ne sarei stato in barca a pescare, a fare, a divertirmi, ma purtroppo quando esci sei stanco. Poi se vai col carrello ci vuole un'ora a scendere a Porto Torres, così che mettere la barca in acqua, poi toglierla, una cosa e l'altra, non ne vale la pena. Allora solamente sabato e la domenica, poi quando si va in fili 15 giorni di fila. Ma tu ti devi organizzare tutto bene, tutti i mozzettoni, tutto, in modo che non devi perdere tempo per le gare e per scioglierla, cioè devi fare un lavoro come ho fatto io con il gommone, è una cosa veloce, ci pieghi 10 minuti a buttarla giù in acqua. E in cappa, infatti io adesso quando sarà tutto quanto finito, anche gli ancoraggi che hai visto che adesso ci sono quei quattro pezzi di corda per legarla alla barca, quasi quasi se vedo che va bene, quelli lì non glieli metto più, gli metto quelli un po' elastici, no, a gancio, in modo da fare in fretta sia a scioglierla che a tutto, che a rimetterla su. No, elastici no, non metterli elastici non conviene, perché poi ti salta dal rullo, ti salta il rullo e non va bene, ci vuole una cosa rigida. Tu dietro ce l'hai col fare con i ganci per legare le cime nello stretto di poppa? Sì, ci sono le cose per legare le cime. C'è le bite, come l'ha legata? Sulle bite o sullo stretto di poppa nel golfare? Dove l'ha messa? Non le hai viste giù in fondo, vicino al motore, che ci sono quei ganci per mettere le cime? Ma quelli attaccati allo stretto di poppa o le bite proprio sopra la coperta? Cioè nemmeno la coperta al sopra, dove passi, dove cammini? Beh, io cammino dentro, non c'è niente dentro. Io ho i cosi per le canne, la pesca, la traina e poi in fondo proprio negli spigoli ci sono i cosi per quando la leghi la barca, sia dietro che davanti. E appunto tu utilizza, ti fai, io nella barca mia per dire, c'ho l'impiombatura mi sono fatto fare perché io non, diciamo così fatta bene non la so fare. L'impiombatura gli ho messo la relance, che sono quelle specie di gocce, chiamiamo le gocce, hanno una forma di goccia, sono in plastica o in acciaio inossidabile. Lo infili dal gancio nell'occhiello del gancio del carrello, hai visto c'è una specie di occhiello. Esatto. Quello lì lo infilo di lì dentro, poi lo passo dentro il golfare di dietro dello specchio di poppa, glielo infilo dentro, gli faccio un coso, glielo infilo bene, un lodo che ti riesce a scioglierlo subito, ti prego 5 minuti a scioglierlo la barca. E con l'uomo le faccio un burbo in fretta perché c'erano le cinghie col bosco. E poi dentro, un attimino ci mettiamo con le cinghie. No, ma in infatti io adesso mi devo fare, siccome c'ho tante cinghie di sicurezza di quelle delle macchine, no? Che ne avevo recuperato un bel po', me ne faccio cucire due, bene, e gli metto gli anelli e gli passo direttamente la cinghia che va da una parte all'altra, in col cricchetto lo tiro poco a poco, boh, finito, e dietro è legata, e davanti già c'è il moschettone che la tira al corso, là, dove c'è il varicello, la mantiene così, così faccio ancora prima, anziché stare a legare da tutte le parti. No, non va bene così, Mario. Non devi considerare solo il movimento laterale della barca, cioè per dire che prende un fosso e si sposta di fianco, quello va bene per il movimento laterale, però devi considerare tu delle sollecitazioni, la barca ti può andare in avanti con una frenata, oppure secondo il corpo che prendi ti può andare anche indietro, devi fare in modo che la barca non vada né avanti né indietro, la posizione migliore è legarla avanti con l'argano e poi metterci eventualmente una cima in modo che te la tenga bassa la prua e poi dietro la poppa, legarla la poppa in modo che la barca non vada né avanti né indietro, perché se fai quel discorso che stai dicendo tu di regarli la poppa, prendi secondo il colpo che prendi la frenata, si impella la punta e fa il ridanno, ti scivola la barca. No, come sto dicendo io non dovrebbe scivolare, perché quello che sto dicendo io è una cosa abbastanza sicura, perché dietro mettere la fascia col corso, davanti c'è il varicello che la tira, giusto? E se la porta davanti fino a toccare il coso della prua. E in più anche lì la fascia, no? Che scende da sopra da sotto, in modo che rimanga sempre ferma. La cosa migliore è utilizzare, adesso non mi ricordo se tu c'hai utilizzato le bitte di ormeggio oppure c'hai i golfari dietro la nostra poppa, l'ideale è avere i golfari che sono delle U infilate dietro, sono delle in acciaio inossidabile, tipo come ce l'hai dove metti l'argano, a poppa ce li hai quelli, non specchio di poppa. Lo specchio di poppa io c'ho quello che sembrano corna di bue, con i due piedini che scendono e attaccano alla barca. No, no, quelle sono le bitte, quello non c'entra niente, io parlo dove attacchi il motore proprio, la parete del motore, e lì ci sono degli, si chiamano golfari, sono delle, tu fai presente un pezzo di trafila a U, piegato a U, e burronato. No, no, non ne ho io di quello lì, non ne ho, addirittura dove ci sono quegli affari che stringono il motore per non andare direttamente sopra il legno, ossia che si sponda, gli ho messo una placca di quelle in alluminio però leggere, in modo che stringe sopra quello lì e non fa il buco sulla barca. Prego. Avanti, buonasera, doppio room. Buonasera a tutti, vai. Mi sto spostando, vai, sono andato a pagare gente, era a casa, adesso fa poco che non niente, va. Buonasera a tutti, comunque, tutto bene, sì. Cappa, devo dire, scappagnata anche oggi. No, oggi ce l'avamo per fare il gioco di giù, che scappagnata, oggi mi avevo dovuto rinunciare, ce l'avamo per fare il gioco di giù, a casa c'erano tutti gli amici, parenti, cavolo e tante altre cose, là, siamo stati bene con. Cappa, cappa, va bene. Vabbè, va bene, sì. In questi tratti di cose felici va sempre bene, va. Dico va bene, no, io credevo che eravate in gita perché non vi abbiamo sentito niente in tutto il giorno. No, no, io. Ma no, io sono entrato stamattina, vai. Sono entrato anche non portando. E stamattina mi sono fatto l'impianto alla macchina di uno. Almeno con l'elettrico, così se ci devo mettere il portatile. Lo attacco io, buonanotte. Gianni. Dimmi. Senti, da dove stai modulando? In casa? No, no, sembra la funzionale. Con la radio non mi piace, non è, sembra un po' strafatta. Non so, è troppo forte, può essere, se dici la casa tua, è troppo forte. È malissimo. Guarda, non so perché devo regolare. Per trigola, fuori, poi rientro tutto quanto a casa, scoppia mia sorella qui. Non rientro a casa, dopo. E allora Claudio, che si è fatto oggi? Lavora qua? No, non stai più lavorando la domenica. Allora ancora dentro la busta. No, io ne ho uno che è in plastica. sembra. Il 9 è un altro canale, boh, non me ne ricordo. È buttato dentro il mobile. No, volevo metterci il canale 10, visto che ascoltiamo noi, per darlo a un amico per ascoltare, lui riesce a ascoltare, adesso ti busco il canale 10, però boh, non se ne trova il quarto del canale 10. Così, ma non era futiluda, le ho detto, le ho lavo io, ho detto, me se ti capita qualche notte che ti vuoi fare due risate, ascoltare qualcuno o qualche discorso interessante, non era futiluda, proprio non interessa, le ho detto io che le ho lavo io, anziché accenditi la radio ti ascolti i discorsi dei CB. Ecco, quanta gente che ci ascolta, noi neanche lo sappiamo, e questi, io ne ho trovato uno da poco, mi detto, ma tu la notte con questo, quest'altro, eccetera, eccetera. E te tu cosa ne sai? Io vi ascolto. E detto, cavolo. No, gente che ti ascolta ce n'è sicuramente tanta, Tanta che noi manco immaginiamo, perché sappiamo che molti non stanno più modulando, che quello, che quell'altro, ma ce ne sono tanti che ascoltano. Caspita, ci sono i bravi e i cattivi, gli invidiosi, quelli che li piace ascoltare per imparare qualcosa e poi piano piano prendersi la faccia, di tutti i generi ce ne. Purtroppo ci sono anche i cattivi e bisogna stare attenti. E il KK, ma a me personalmente non me ne frega niente, né dei buoni e né dei cattivi, perché io non parlo male, sono abbastanza tranquillo. E così che non c'è niente né da invidiarmi né nulla, così che la stazione che ho è quella che è, basta. E vabbè, no, non parlo di quello, io parlo del discorso dell'invidia quando facciano quei lavori di traslamenti e cose del genere, io sto parlando di quello. Gappa, ma ci sono quelli che lo fanno, poi ci sono quelli che non lo fanno, per esempio ce ne sono tanti che lo fanno giusto per scherzo, mica perché lo fanno per invidia o per quello o per quell'altro. Ce n'è qualcuno che gli piace scherzare e allora fa lo stupidino, però diciamo così, basta non darci importanza, perché hai visto che non è più successo nulla. Anche le portanti stanno diminuendo, l'altro giorno c'eravamo lì invece il lotto che mandava un po' di musica, vabbè, però ho visto si sono ridotti molto i disturbi, forse si è reso conto che non faceva vedere a nessuno e non li stavamo dando importanza. A me non parlare, se non li lasciati stampare. Una bomba, noi abbiamo CB bomba, così si chiama. Chi è questo CB bomba? No, io dico una bomba, non è che dobbiamo buone le bombe, le cose, eccetera, eccetera, che oggi dice ne ha messo una nella bottiglia. C'era prima quello della portante, CB bomber, mandava la portante. Io sono Luna Bomber. Luna Bomber, Bomber. E cosa siete costruendo in CB là? Sicura la situazione? Alla torre di controllo, la facciamo una gentesa. Comunque Gianni ti ho sentito io, basso però ti ho sentito. Stamattina io non ero a casa e stavo provando la base alla macchina mia moglie perché ho fatto l'impianto. Ho fatto l'impianto elettrico per quando vado fuori così posso portarle. Niente di più. Solo che mi ha raccomandato il dolore della batteria, tutti i mezzi di oscillati, non riuscivo a smollare in nessuna maniera. Io invece stavo usando non so che apparecchio, non mi pare toccare, non ho capito, anche lui non arrivava come al solito, fortissimo, però era forte, cioè in assoluto il segnale più forte che ho ricevuto. Già, come dove è passato il roccia nera, no? Via, mi sono, e adesso quasi passato il troppo là, quasi passato, sono proprio sotto casa tua in questo momento. Qual è il passato? Quello rosso e nero fine? No, non è fine. Claudio, fuori a Vanessa. No, io sono senza... Sono... Di cosa lì? Di quello là, se non so niente a casa. Siete buoni sotto, già ti intende, però. Vabbè, ma poi non si fare lo scherzo, perché non si viene a lui, mi fa che si sia giù. Con la quale è comodo automaticamente, non so, è il nuovo.

fare anche il raio alla mano. Non riuscivo a capire Mario, a parte Claudio, vabbè, Claudio lo distruggeva. Cioè, sentiva Salvatore, non a me, ma è un po' strano, io ti sentivo sotto. Ma no, non sentivo nessuno, Luca, non so se stavi parlando o non stavi parlando, non te lo posso dire, però l'unico che sentivo appena appena, proprio il finissimo, era Salvatore, e appena appena a coso, a Mario, però non capivo. Salvatore riusciva a farsi capire. Però voi se ce l'avete o non ce l'avete non lo so, non vi sentivo per niente. Capo. È un segnale allucinante. Con lo squelci l'unico che entra qua è Claudio. Poco fa Gianni Grazio, tu casa mia. Questo era quasi a livello loro come segnale, sarà stato un 9.50, blu. D'accordo. Ci sei ancora? Io ci sei ancora? Però ci sono tutti, no? Tutti. Voi tra di voi vi sentivate Luca, Mario e Gianni? Tutti sentivo io, non ho altri problemi, anche Luca passava sotto, capito? Ma che non metteva musica, se mette musica loro non passava nessuno. Ma io sotto sentivo a tutti quanti, anche a Luca. No, sto dicendo se tra di loro, per capire in che zona era portata, se tra di loro si sentivano Luca, Gianni e Mario. Se fosse stata la morte loro non si sentivano già, e cioè qua. Sì, vabbè, non lo so, comunque ho provato al mondo, però i segnali sono quelli. E non da che paese vicino? No, no, non era così, no. È più forte, i paesi qua mi arrivano più forte, non che mi arrivano per 30, capito? No, per 25 no. È buono, però possiamo aumentare molto il volume perché 54, CQ, Sanatone, la portata è stata fuggire a tutti. Vabbè. Thank you. Lunghezza totale 55 cm e tu sei un affatto. facendo vedere. Ci sentiamo dopo, se no sapere qualcosa.